Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Dal laboratorio sartoriale ai capispalla di lusso. Storia dell'azienda marchigiana Lardini, di Alessandra Tedesco. Dietro i grandi marchi di qualità del Made in Italy, spesso c'è una storia di artigiani, di piccole imprese fortemente legate a un territorio che con il tempo riescono ad affermarsi a livello internazionale. È il caso di Lardini, azienda marchigiana che produce capispalla, cappotti e giacche sia per uomo che per donna. Tutto è iniziato nel 1978, quando in un piccolo centro in provincia di Ancona, Filottrano, tre fratelli, Luigi, Andrea e Lorena, decidono di lanciarsi nell'impresa. Così ricorda Andrea Lardini, ora presidente dell'azienda. A Filottrano c'era una cultura di capospalla, del capospalla sarebbe abiti e giacche, da dopo la guerra, perché c'era una filandra, quindi si facevano tessuti con la seta, c'è tutta una storia molto lunga che adesso magari ci vorrebbe troppo tempo. E da qui c'era questa cultura di fare giacche e mio fratello ha avuto questa idea, aveva smesso di fare a scuola perché non era un grande studente, e di iniziare questa avventura. E io facevo ingegneria, mi sono trovato un attimo a fare il militare perché ho avuto un attimo di sbandamento mentale e ho eseguito mio fratello e è iniziata questa storia. Siamo stati più un gioco, una scommessa. Mio padre ci aveva creduto, ci aveva dato dei finanziamenti, c'era questa casa che era libera e abbiamo iniziato lì. E poi i primi anni è stata un po' dura perché sai, eravamo bambini, mio fratello ci aveva 18 anni, io 21, la sorella ce ne aveva 2 anni meno di me, 19, quindi l'esperienza era poca, la voglia tanta, l'entusiasmo era tanto. Poi abbiamo iniziato con un laboratorio, abbiamo preso dei macchinari, iniziato a fare controterzi, perché all'inizio avevamo iniziato con la nostra collezione, ma con la nostra collezione è stato un po' difficile perché il nome non c'era, anche se erano momenti favorevoli, non erano momenti adesso, c'era un'euforia a quei tempi lì, 78 era dei bei anni, insomma, dei sogni anche alla fine. Forse non dico facile da realizzare, ma con un po' di entusiasmo si poteva raggiungere, diciamo, certi obiettivi. Un budget iniziale di 20 milioni di lire messo a disposizione dal papà di Luigi, Andrea e Lorena, viene dunque avviato un laboratorio artigianale che, dopo un primo tentativo di realizzare una collezione in proprio, finisce per produrre per conto terzi. Ma si tratta sempre di capi di alta qualità, fascia di lusso. I clienti di Lardini sono marchi come Biblos, GTF, Le Copain, Valentino e Versace. Nel giro di alcuni anni però di nuovo l'idea di produrre una propria collezione e questa è stata nel 1993 la svolta dell'azienda. All'inizio si chiamava Cashmere House perché ci è venuto questa idea di... c'aveva un amico che era rappresentante, no, commerciale, direttore commerciale di un'azienda, ha detto: Andrea, perché fai queste belle giacche e non fai qualcosa per conto tuo? Io ho detto: io potrei pure farlo, però io sono stato sempre un uomo di numeri, di prodotto, non sono stato mai un creativo. E c'era Luigi che invece, mio fratello, che è stato sempre fin dall'infanzia persona, sì, che lui voleva quella volta, mi ricordo il Manuel Ritz Pipo, che è tuttora il marchio che esiste, voleva tutte le cose particolari. Quindi per me, ho visto che c'era mio fratello, dico: partiamo, facciamo questa prova. E abbiamo fatto queste giacche in cashmere, quindi un prodotto molto prezioso, e queste giacche, mi ricordo, l'esperienza era poco, si sono accorciate e ritirate, insomma, con questo discorso che le giacche erano un po' piccoline, c'è stato un po' questo successo di Cashmere House. Abbiamo iniziato la linea nostra tanti anni fa, finché non c'è stata la svolta da Cashmere, l'abbiamo portata al brand Lardini. L'azienda di Filottrano, partita alla fine degli anni 80 con 2 o 3 dipendenti, si ingrandisce ogni anno che passa. Oggi dà lavoro a 300 persone, alcune delle quali sono in azienda da 35 anni, e ad altre 700 persone nell'indotto in un comune che sfiora i 10.000 abitanti. Nel territorio dunque la Lardini ha un certo peso, l'azienda che diventa tutt'uno con il territorio e dove i rapporti con i dipendenti sono schietti. Il Made in Italy è fatto dalla nostra ricchezza e la risorsa umana. La risorsa umana, questa parola sembra un po' così, però il rapporto, non dico familiare, sempre rispetto dei ruoli, ma il rapporto familiare è capire i problemi del settore, capire i problemi economici del paese e confrontarsi con l'autorità, col sindaco, in tutti i livelli, anche per dire asilo nido o l'ospizio, queste cose qua, fa parte di un modo di viva della cultura dell'imprenditore marchigiano, penso. L'impatto di Lardini e delle imprese dell'indotto sul territorio è così consistente che, di comune accordo con le altre aziende, si sono stabiliti orari di lavoro leggermente sfasati, in modo da non bloccare il traffico locale in alcune fasce della giornata. C'è poi una certa flessibilità di orario per i genitori che devono prendere i figli a scuola. Questo dà l'idea di una grande azienda che, però, è rimasta ancora oggi artigianale. Noi siamo molto attaccati al territorio e la qualità si raggiunge facendo quelle piccole cose che sono, diciamo, legate alla manualità delle persone, perché la giacca è fatta di molte fasi sartoriali e se, cioè la tecnologia ci aiuta molto in molte operazioni, però se non c'è la manualità non si raggiunge lo scopo. Nell'azienda ognuno ha il suo ruolo. Luigi è il creativo, Andrea, ingegnere informatico, segue lo sviluppo tecnologico ed è il presidente, o come lui stesso ama definirsi, il tuttofare. Lorena si occupa della gestione finanziaria e amministrativa. La sorella Narita, entrata in azienda in un periodo successivo, è responsabile qualità. Con questa squadra a capo dell'azienda, nello stabilimento di Filottrano, ogni giorno vengono prodotti 2.000 capispalla. Il 70% viene venduto all'estero. 450 negozi multibrand e una decina di monomarca presenti, oltre che in Italia, in Russia, Corea, Cina e Stati Uniti. Ma è in Giappone che i fratelli Lardini diventano delle star, come racconta ancora Andrea Lardini. Noi in Giappone siamo molto conosciuti, a parte sia me che mio fratello, tante volte quando siamo lì ci chiede l'autografo. Stamattina mi ha fotografato le scarpe, dico le scarpe, adesso che c'entra le scarpe con i vestiti, cioè, i giapponesi ci fa vedere, ah, Lardini brand, cioè è una questione secondo me di avere una visione mondiale del prodotto, perché in questo momento qui se hai la visione solo nazionale o europea non riesci a raggiungere gli obiettivi vanno raggiunti nazione per nazione, ogni nazione deve averci la tua persona, deve averci chi segue il prodotto, capire anche le esigenze di quella nazione. E per esempio il giapponese che ci dà grossa soddisfazione, la giacchettina deve essere corta, piccolina, tessuti innovativi, la spalla giusta, un lusso molto aggiornato, capito? Molto trendy. L'export pesa molto sul fatturato dell'azienda marchigiana e l'internazionalizzazione è ancora una volta la parola chiave che è servita ad affrontare e superare la crisi. Dai 37 milioni di euro di fatturato del 2009 si è passati a 56 milioni nel 2012. Per l'esercizio 2013 si prevede un fatturato di 60 milioni. Quando è arrivata la crisi, questa crisi 4-5 anni fa, insomma c'è stato un attimo di scombussolamento mentale, c'è stato un grande scossone, no? E allora pensi sempre, analizzi l'azienda, quello che c'è di giusto, quello che c'è di sbagliato, poi devi trovare dei fattori per cercare di superare il momento. E certo che per noi la qualità era al primo posto, quindi il problema di lusso, di qualità era al primo posto. Allora lì la scelta è stata di prendere nuovi direttori commerciali, investire parecchio sugli uomini, anche sotto la crisi. Mi ricordo quando è stata la crisi, nel 2008 la prima svolta, no? Noi siamo stati attenti e non abbiamo mai licenziato, anzi abbiamo cercato di assumere, di tenere quello che era il nostro valore, la risorsa umana, facendo anche un momento, il 2008 è stato diciamo una botta un po' per tutti. È superato il momento, abbiamo visto che le persone, gli investimenti che sono fatti, quelli diciamo a livello di risorsa umana, anche a livello di tecnologia e anche a livello di immagine, showroom, tante piccole cose che hanno fatto cambiare l'immagine visiva di Lardini all'esterno, e questo ci ha aiutato parecchio, investendo anche a livello commerciale sugli esteri, di cambiare l'immagine e la visibilità. Anche la crisi è stata dunque per questa azienda un'occasione per crescere, stringendo i denti. Andrea Lardini non ricorda un grande momento di difficoltà della sua azienda, forse anche grazie al carattere pragmatico e propositivo. Non c'è una difficoltà che la vedo ieri o domani. Per me il giorno per giorno è avere sempre gli occhi aperti e cercare di fare strategie. Quindi la difficoltà in sé per sé, se uno non fa una rotta, io mi piace il mare, non imposti una rotta e sai che durante quella navigazione puoi trovare mare mosso, devi essere pronto con le cose. Quindi io sono sereno praticamente come azienda, con tante difficoltà, però la difficoltà è quella di navigare tutti i giorni. L'unica paura forse è che questa azienda creata con tanto impegno dai fratelli Lardini possa non trovare in futuro una guida forte, una nuova mente imprenditoriale. La seconda generazione non è facile. Perché? Perché dicevo prima, un conto è fai da sé, un conto poi quando te sei sempre lì in trincea, armi bianche, un conto sai i figli che uno laureato, l'altro ha fatto marketing, l'altro ha studiato, magari mandato a destra, a sinistra per il mondo, preparati, mentalità più open space, più libere da mettere tutto insieme. O grandi direttori generali che riescono a gestire i figli, oppure non lo so, ci cioè deve essere uno dei figli o dei nipoti che abbiano il carattere e la capacità di dire: beh, io non faccio stile, non faccio, mi piace fare l'imprenditore. L'imprenditore è tutt'altra cosa che fa solo stile. L'imprenditore è quello che, insomma, alla mattina si alza e vede, aspetta, che c'è la burrasca in arrivo, oppure bisogna cambiare rotta, bisogna fare delle strategie. Non è facile, già non è facile per me, quindi. Per ora Lardini continua ad ampliarsi, un nuovo capannone per portare all'interno alcune fasi della produzione al momento affidate a terzi e un nuovo showroom a Milano nel quadrilatero della moda. Vetrina essenziale per chi fa moda, importante tanto quanto, se non di più, le fiere in Italia e all'estero. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.